Alfa Romeo. L'anonima lombarda fabbrica automobili, o come è nota, l'Alfa Romeo, è stata fondata nel 1910 a Milano. Il suo logo contiene i simboli di Milano: una croce rossa in campo bianco e il biscione, il serpente dello stemma della famiglia dei Visconti. In seguito, l'ingegnere napoletano Nicola Romeo ha aggiunto il proprio nome all'acronimo, che è la prima lettera dell'alfabeto greco. È soprattutto una casa specializzata nella costruzione di auto sportive. Hanno avuto grande successo la Giulietta, 1955-1963, e la Giulia, 1962-1977. Dal 1986 fa parte del gruppo Fiat.